Beh, ci vorrà un po' per capire bene chi ha votato come anche dal punto di vista demografico. Sicuramente è un'America che, facendo la media tra tutte le varie intenzioni degli stati e delle persone, ha voluto limitare un po' il potere dei repubblicani e di Trump. Fino a ieri i repubblicani controllavano la Camera e il Senato, da gennaio controlleranno solo il Senato, e questa è la dimensione della vittoria dei democratici, che non è enorme ma è significativa, e avrà delle conseguenze politiche, perché tutte le leggi per essere approvate devono passare anche dalla Camera, e quindi Trump dovrà necessariamente venire a patti con i democratici o rassegnarsi a rinunciare a certe promesse. La Camera può aprire delle indagini sul governo, e quindi su Trump, sui suoi collaboratori, su certe azioni politiche, sugli accordi con l'Arabia Saudita, su praticamente qualsiasi cosa. E la Camera può, se vuole, con un voto a maggioranza semplice, avviare la famigerata procedura di impeachment, che poi sarebbe destinata a fallire, quindi per i democratici sarebbe comunque una scelta molto complessa. Ma da gennaio quella pistola è sul tavolo. I democratici, se vogliono, hanno i voti per iniziare la procedura, che poi a un certo punto potrebbe, ma è davvero una circostanza remotissima, portare alla rimozione di Trump dalla Casa Bianca. Le trattative politiche diventeranno allo stesso tempo obbligatorie tra democratici e repubblicani, e durissime, perché poi sono gli anni che ci separano dalle elezioni presidenziali con cui Trump si giocherà la rielezione. Parlando infatti proprio di come ci si avvia a questo punto verso queste elezioni, da una parte intanto Trump ha festeggiato comunque il risultato dicendo che è stato un successo, e in effetti sia a livelli di affluenza, cioè di quanto è riuscito a portare alle urne repubblicani nonostante lui fosse già presidente, sia anche da un punto di vista, diciamo, rispetto a quanto ci si aspettava quando è stato eletto, comunque non è stato un fallimento, non sono state un fallimento queste elezioni per Trump. E dall'altro invece i democratici, forse nonostante questo parziale successo, è stato forse in parte anche una risposta proprio alla presidenza di Trump, diciamo. Sul piano del voto nazionale, se si vanno a vedere come hanno votato gli americani, i democratici dovrebbero alla fine avere un vantaggio di 7-8 punti percentuali. È un vantaggio molto largo. L'ultima volta che avvenne un vantaggio così da parte di un partito fu nel 2010, nel mezzo della guerra in Iraq, nella fase peggiore, nel mezzo della guerra, della crisi economica, e i repubblicani guadagnarono tantissimi seggi. Poi oggi il ridisegno dei collegi rende i guadagni di seggi meno diretti, ma i democratici hanno ottenuto molti più voti dei repubblicani. Certo, i repubblicani hanno limitato i danni, perché sono andati a votare comunque in massa, e quindi a loro poteva andare molto peggio. Trump oggi tira un sospiro di sollievo, ma io penso che nei prossimi giorni comincerà a dare la colpa a qualcun altro e adotterà toni meno trionfalistici, perché la sua agenda legislativa comunque subisce un duro colpo dal momento che non può più contare sul voto della Camera. Quello su cui principalmente ha spinto Trump nell'ambito di queste elezioni di midterm è stato proprio il fatto di essere riuscito a realizzare buona parte delle cose che aveva promesso in campagna elettorale. Nel momento in cui questa possibilità verrà meno, quantomeno in parte, che influenza potrebbe avere appunto su poi l'atteggiamento con cui si arriverà alle elezioni del 2020? Un po' lo abbiamo visto nella parte finale di questa campagna. Quando Trump ha capito che gli ottimi dati dell'economia sulla disoccupazione non erano abbastanza per portare il suo popolo a votare, la sua base elettorale, è tornato a occuparsi moltissimo di immigrazione, a descrivere gli immigrati come una minaccia imminente, a parlare di questa carovana di immigrati che sta arrivando, ma ci metterà ancora almeno un mese al confine americano, come appunto dei criminali che arriveranno domani, ha schierato i soldati al confine. E ho la sensazione che Trump ricorrerà a questo tipo di retorica per scaldare il suo popolo, per motivarlo. Punterà più sulla paura che sul dire guardate quanto sono bravo, perché quello fin qui, per esempio, a queste elezioni non ha funzionato.